Mi divorzio da papà, o spirito persecutore. Da tutta la vita ogni giorno lo faccio, da quando da lui il seme suo s'è staccato, trapanando e conficcandosi in un uovo. Feto, feto, arde, arde nella casa ed esplode luminoso attraendo falene. Per anni è stato un donna donna, poppe, culla, vasino, bambole, vestitini, donna, donna. Papà del whisky, papà dal fiato di gallo, veniva in visita e subito svicolava come fosse una malattia. Più tardi, quando sangue, uova e poppe mi cascarono addosso, papà col fiato al whisky mi fece una lunga visita notturna in un sogno che non è un sogno. E subito dopo chiamò il suo avvocato. Papà chiede il divorzio. Da allora seguitiamo a divorziare. Vado in tribunale con mamma per testimone che siano morti da tempo o no. Io ancora da lui mi divorzio e sommo i delitti come è venuto da me, come m'ha lasciata. Rassetto la camera dal letto, apro e chiudo le finestre, faccio e disfaccio il letto, spennacchio e spiumaccio i cuscini mentre aspetto che torni a casa papà, aspetto che mi imbottisca ad un nostro figlio infetto. Finch'io pregna, invisibile divenga, ma sposata infine.